E alla bellezza del 21 e 22 finalmente ci mettiamo in contatto con voi. Buonasera a tutti voi da me, Rosanna. Buonasera ad Anna Maria. Buonasera, buonasera a tutti, meglio tardi che mai. E buonasera a Fiorella. Buonasera a tutti, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, sì, e devo anche ammettere che questa sera è stata colpa mia, che ho generato un problema tecnico in più, quindi non riuscivamo ad andare in diretta. Quindi mi scuso per i radioascoltatori che si erano sintonizzati con i colori dell'anima, che solitamente va in onda dalle 21 alle 22. Quindi stasera abbiamo una ventina di minuti di ritardo. E proprio perché siamo in ritardo, quindi io direi, Fiorella, che possiamo entrare subito nel vivo dell'argomento di oggi, giusto? Sì, siamo festaiuoli, no? Siamo diventati un po' festaiuoli, cerchiamo un pochettino di ripercorrere quelle feste che ci hanno marcato quando eravamo bambini e quando siamo grandi, adesso con molto piacere ritroviamo e perché ritroviamo anche una parte delle nostre tradizioni. Io, dunque, tra un po' entriamo in periodo di carnevale, ma da poco abbiamo passato la festa della Candelora. Vorrei fare una premessa. Noi siamo qua a Bruxelles, prima dicevamo con Anna Maria, è un po' come il fare il militare di tanti anni fa. Dalla Sicilia si andava in Piemonte per trovare un pochettino le tradizioni. Stando qui a Bruxelles e chiedendo in giro che cosa fosse la Candelora, cosa avesse rappresentato la nostra tradizione, i nostri ricordi, si è visto che non è festeggiata e sentita nella stessa importanza o seguita con le stesse tradizioni o al nord o al sud. Io vengo da Roma, dal centro, dunque la Candelora è il periodo della purificazione, dal punto di vista liturgico è quando Maria porta Gesù al tempio. Candelora perché Simeone vedeva in Gesù la luce delle genti, dunque questa, il simbolo della candela. Nella religione, della tradizione ebraica, le donne erano impure, soprattutto le donne che generavano figli maschi, non potevano presentarsi in pubblico o seguire in pubblico per 40 giorni dopo il parto. Dunque, ecco, il 2 febbraio, giorno della Candelora, Madonna porta Gesù al Tempio. Questo senso di, come dire, di purificazione è ancora sentito in Italia. Pensate che in Sicilia, a Chiaromonte, la vigilia della festa, le donne vanno sul monte per lavarsi con la rugiada. Dunque c'è proprio questa voglia di rigenerarsi. Dunque questo periodo che noi possiamo vedere, Candelora, Carnevale, un prepararsi a un nuovo mondo, una nuova disposizione anche di spirito che poi culmina con la Pasqua, dunque tutto è un susseguirsi, no? Di questo rinnovarsi, come la natura dall'inverno si passa rinnova con la con la primavera. primavera, eccolo. Dunque, comunque si dice anche che la Candelora faceva. Si vedeva anche nell'epoca romana, perché si accendevano tutte le lampade e tutti i ceri per fare luce. Dunque c'era sempre, bisogna anche dire che febbraio, io mi ricordo, viene chiamato il grande inverno, dunque c'è questo bisogno di luce. Sono i Sì. giorni anche più bui, dunque si accendono luci per avere questa visione, questa ricerca della luce. Dunque a Roma già nel Medioevo, un pochettino come importazione dell'antica tradizione ebraica, si faceva una grande processione, quella grande, quella lunga, che, come si diceva, e passava per Santa Maria Maggiore. Dunque, e poi negli ultimi anni, cioè negli ultimi anni, parlo sempre del Medioevo, si era accorciata e questa processione si faceva intorno a San Pietro. Venivano benedette dal Papa delle candele, poi ce n'erano tre. Una veniva data alla Chiesa, una al diacono e una per il segretario del Papa e veniva messa nel comodino. Io questo ricordo perché mia mamma, io di solito vado a Roma a Pasqua e c'è sempre la candela della Candelora, dice: "Ti ho preso la candelina, io ho tutte queste candele che ho preso per i miei figli, sono piegate dal caldo, eccetera." Però è una, perché questa candela che viene accesa, io almeno lo accendo, gli esami dei miei figli, qualcuno sta male, c'è questa tradizione perché la candela è questo simbolo di Gesù, di questa chiarezza, della presenza del divino. Parlando con queste mie amiche che sono del nord, dunque di Milano, loro non hanno la candelora, ma hanno San Biagio il giorno dopo. Ah. E si va a San Biagio, mi dicevano, con un panettone che è rimasto dal giorno di Natale, si porta il giorno di San Biagio in chiesa, viene benedetto e poi mangiato in casa, normalmente tostato perché non sarà più fresco. Stagionato, però loro lo passano al forno perché è così si fa. Ah. Sì, sì, caldo caldo. E fanno benedire i bambini alla gola, perché alla San gola. Biagio è colui che benedisce. E io vorrei aggiungere che San Biagio si festeggia anche a Lanciano, in provincia di Chieti, con lo stesso significato, cioè ci si fa benedire la gola proprio per proteggersi dai malanni che riguardano la gola. Comunque questo senso di purificazione c'era già anche ancora dagli epoche dei romani, perché fu Februatio, febbre vuol dire espiazioni, e dunque anche questo è il mese delle espiazioni, si andava per casa in casa, dunque c'è questo mese di febbraio, mese è il mese delle espiazioni. Sembra strano che ci sia anche carnevale, perché sì, in effetti è un po' incongruente, no? No, non penso, perché quando c'è un'espiazione prima uno si deve lasciare, no? Cioè si deve lasciare, perché carnevale vuol dire anche lasciare la carne e tutto quanto. Può essere non si mangia carne, però prima di non mangiarla fatti la boffata. E questo penso che lo seguiamo in tanti, questa tradizione. Diciamo che il nuovo viene dopo che ci sia il caos. Il caos, esatto, genera sempre qualche cosa di nuovo, ma per esserci il nuovo ci deve essere il caos. Dunque, è sempre questa antitesi. E oggi devo dire che io devo ringraziare queste trasmissioni, queste ospitate, come si dicono, perché vedo alcune cose che non ho mai saputo, non ho mai, come dire, più che altro diamo qualche attenzione in più a degli argomenti che altrimenti non ci sarebbero neanche mai passati per la testa. Aperte virgolette, per me il carnevale mi faceva sempre molta tristezza quando ero piccola, non lo so perché, dunque non ho mai approfondito il carnevale. Per quanto c'è un legame fra candelora e carnevale a Venezia, perché il 2 febbraio si sceglie la più bella, viene fatta una, come si dice, si legge. Io leggo, l'avevo scritto da qualche parte, viene eletta la dama che poi farà il volo della colombina a Venezia. Anticamente a carnevale prendevano le 12 più belle donne e si faceva il loro matrimonio, cioè le più belle e le più povere. Dunque il 2 febbraio si elegge a Venezia colei che sarà la dama del carnevale a Venezia. Dunque c'è questo legame fra 2 febbraio Caldeva, colei che rappresenterà il carnevale in qualche modo. Sì. Quella che dovrebbe l'ospite d'onore, quella che apparirà dal campanile di San Marco fino in piazza, però vedrete la bella del carnevale. Va bene, facciamo allora, mentre continuiamo a parlare delle tradizioni italiane, di tradizioni invece europee, per esempio in Belgio. Ma ti sei fatta un'idea del carnevale più famoso? In Belgio io mi sono un pochino documentata, perché non che sia proprio, per quanto mi piace molto il carnevale, devo dire la verità, e direi che è cominciato a piacermi quando ero un pochino più grande, non tanto da bambina, perché ti mettono da bambina quegli orribili vestiti che tu odi e poi quando diventi grande li puoi scegliere, quindi ho cominciato molto tardi ad apprezzare il carnevale. Però qui in Belgio non sentivo la stessa atmosfera, quindi non mi sono mai interessata, finché non abbiamo deciso di fare la trasmissione, perché chiaramente mi sono detto, ma sarei il caso di guardarci un poco intorno? E ho chiesto anche consigli in giro. Ed effettivamente, soprattutto nella regione della Wallonie, ci sono tante piccole città che festeggiano il carnevale. Diciamo che è visto in maniera un pochino diversa rispetto all'Italia. Noi abbiamo l'idea del carnevale, delle feste, i balli, ognuno si maschera come vuole. Sì. Qui hanno delle bellissime sfilate con un tema unico, direi. Quindi ci sono i Gilles da una parte, ci sono, lo devo leggere perché non lo so neanche, che si chiamano i Chinelles, adesso vi dico anche dove, a Fosse-la-Ville. quindi questo paese del Belgio, ci sono questi chinelle che sono molto simili al nostro pulcinella, il costume è molto simile al nostro, uh-huh, a quello di pulcinella, e sono gruppi vestiti tutti nella stessa maniera, quindi appunto dicevo diverso rispetto a quello a cui siamo abituati in Italia, perché ci sono, sì, delle maschere tipiche in, sì, Italia, sì, abbiamo, sì, il pulcinella, abbiamo l'arlecchino, colombina eccetera, invece qui abbiamo proprio una serie di persone vestite tutte nella stessa maniera, uh-huh, e poi fanno queste bellissime parate, da qualche parte ci sono il lancio delle arance, addirittura a Dunkerque, quindi parliamo della Francia, un pochino più vicino, c'è il lancio delle aringhe, questa cosa mi ha scioccato. Sai, gatti. I gatti saranno contenti. Esatto, c'è il famoso carnevale di Binche, che penso, sì, che lo conoscono tutti più o meno. E poi cosa abbiamo ancora? Nivelle, abbiamo un carnevale di Nivelle, uh-huh, che Nivelle è anche piuttosto vicino, che addirittura risale alla seconda metà del 1500, uh-huh, quindi sono carnevali di una tradizione antichissima, uh-huh, uh-huh, però noi non ci siamo mai soffermati forse a... Sì. A conoscervi un po' meglio. Tu non hai visto nessuno di questi? Io non l'ho visto ancora nessuno, mm-hmm, devo dire. Devo dire la verità. E sinceramente mi è venuta un po' la curiosità, se non altro per vedere questi diversi modi di festeggiare la stessa festa, mm-hmm, perché certo, poi non solo nella in Belgio, ma per esempio a Nizza, dove ci sono le stesse le parate, cioè a Nizza c'è una tradizione del lancio dei fiori. Mm-hmm. Durante le parate e anche tutti i carnevali famosissimi, il carnevale di Rio, parliamo del carnevale di Rio, hanno, sì, tutti delle origini che comunque vengono tutte dall'Europa. Uh-huh. E questa cosa delle arance, no? Sempre andando spulciando perché mi sono un po' documentata, me lo ci ho provato, nel carnevale di Ivrea, che ha più di 200 anni, sì, c'era proprio la battaglia delle arance. Dunque, perché un carnevale è una rappresentazione storica, dunque bisogna anche dire che il carnevale era anche dato dalle aristocrazie, ma come era un pochettino nella Roma antica, no? Panes circensis, si dava la possibilità alla plebe, al popolo, di per un giorno di potersi mascherare, di fare tutto quello che potevano, e anche di dimostrare contro il potere che c'era in quel periodo. Dunque, il carnevale di Ivrea non era altro che la riproduzione anche della dominazione napoleonica. Dunque, c'erano questi carri, la gente dal terrazzo buttava le arance contro i carri che passavano. Adesso non so perché, forse si è passato anche qui in Belgio e anche in Sicilia. Mi pare di aver capito che era il contrario, cioè dal carro vengono lanciate. No, da lì si buttavano anche da lì si buttavano dalle terrazze, e anche in Sicilia c'era questa tradizione, come passavano i carri, si buttavano queste arance contro i carri. Che poi l'arancia pesa, cioè è un'arma impropria. Infatti, cioè se ti viene un'arancia sul naso, insomma, certamente piacere non ti fa. E poi, per esempio, comunque possiamo dire anche che noi intendiamo il carnevale in un certo periodo. Bisogna anche dire che per il rito ambrosiano, dunque Milano e provincia, è scalato di 4 giorni, perché l'allora vescovo di Milano, che era sempre il vescovo, tanto poi è diventato Sant'Ambrogio, era in pellegrinaggio e ha detto: incominciamo i riti della quaresima a mio ritorno. I concittadini lo vollero aspettare, lui arrivò tardi, e dunque il carnevale a Milano è per questo che è, come si dice, posticipato di 4 giorni. Tutto questo grazie a voi, perché non lo sapevo. Allora, invece io mi sono un pochino documentata su un carnevale del sud, che è il carnevale di Putignano, che è arrivato alla 620ª edizione, e quindi si svolge appunto nella città di Putignano, in Puglia, che è in provincia di Bari, ed è diventato effettivamente, come quelli di Ivrea e di Venezia che hai citato tu, Fiorella, uno dei carnevali più antichi al mondo. Quindi appunto le sue origini sono incerte, però sembra essere del 1394, addirittura, quando i cavalieri di Malta, che all'epoca detenevano il governo del territorio, e decisero di trasferire a Putignano appunto le reliquie di Santo Stefano Protomartire, e la notizia venne accolta con tale entusiasmo dagli abitanti che all'arrivo del santo seguirono quindi festosamente la processione. Quindi in questo caso, diciamo, la festa del carnevale e appunto fu dovuta all'arrivo di questo delle reliquie di Santo Stefano, e quindi da allora, insomma, si continua a festeggiare. Il carnevale di Putignano, tra l'altro, è anche uno dei più lunghi per durata, perché comincia il 26 dicembre. Quest'anno è cominciato il 28 a causa del maltempo e appunto poi dura quindi fino comincia con la cerimonia dello scambio del cero, che quindi è il simbolo di redenzione per tutti i peccati che si commetteranno durante il carnevale, e con l'inizio delle propaggine, e le tre domeniche prima del mercoledì delle ceneri poi si fanno le vere e proprie sfilate, che quindi sono sfilate di carri allegorici in cartapesta, quindi come si fa anche in altre feste di carnevale. E poi appunto invece il martedì grasso c'è una grande sfilata con la celebrazione del funerale del, ahimè, povero carnevale, quindi che poverino quindi muore a carnevale. E tu parlavi della cartapesta, però è solamente all'inizio, i carri non erano in cartapesta, erano in gesso e pesavano tonnellate. Poi si è passato alla cartapesta e dunque erano molto più leggeri, ma una volta sfilavano questi enormi carri di cartapesta. Un particolare sguardo, guarda che per giornalismo proprio smidollato che ho io, è il Carnevale di Roma. Chissà perché, ma chissà perché. Forse l'hai vissuto un pochino? Oddio, all'epoca no, all'epoca no, me l'hanno detto comunque. No, insieme a Venezia, allora, bisogna anche dire che i carnevali più importanti erano quelli delle province, perché volevano anche differirsi, era l'unico momento in cui loro potevano essere più importanti delle grandi città, tipo Venezia e Roma. Dunque di Venezia, poi facciamo un discorso a parte, perché forse il carnevale, che è quello più pittoresco, è quello che porta dietro tutto quello che ne nasce. Quello di Roma non erano sfilate di carri, ma si faceva una corsa da Via del Popolo su Via del Corso di cavalli. Dunque non era tanto non era tanto il carnevale come lo vediamo noi di maschere, ma era una sfilata, una corsa di cavalli. Dunque una il corso, sì, un corso di cavalli, perché da Piazza del Popolo faceva tutta Via del Corso e arrivava fino a quella di adesso, Piazza Venezia. Dunque era un po'. Siamo sempre stati un po' più sobri, non lo so. Più. Ma proprio sobri non direi. Ma quello che diceva, bevi l'acqua di Roma. Ma sai, secondo me c'era sempre questo spirito di competizione innato. Sì. No, poi ti diceva che l'ultimo giorno di carnevale, appunto, si andava in giro per Roma tutti quanti con le candele, e era lo scherzo di spegnere il moccolotto. Il moccolotto è ciò che resta della candela, di spegnere il moccolotto del vicino, e per arrivare poi veramente al funerale del signor Carnevale. E stavo leggendo, per il carnevale di Venezia c'è un carnevale di cui avevo letto, quello di Fano, che è il più antico dopo quello di Venezia, perché non tutti i carnevali nascono per l'idea del carnevale. Questo nacque per la pace fatta fra due famiglie, dunque vollero fare una grande festa che poi finiva sempre con un grande fuoco d'artificio. Dunque, è il secondo, il più antico, dopo Fano, dopo Venezia, dopo questo Venezia. Di Fano. Sì, questo di Venezia, che è effettivamente forse quello più importante, è un dono che faceva la Serenissima al popolo. Dunque per un giorno, per un periodo si poteva fare di tutto, ci si poteva mischiare, gli uomini diventavano donne e viceversa, e lo potevano fare attraverso questa maschera particolare che si chiamava la bauta. Ci ho messo anche l'accento, che si chiama bauta. Era una maschera unisex, dunque non si sapeva chi la indossava, se erano uomini, donne. È una maschera bianca sul viso, senza espressione. La maschera si chiamava larva ed era portato sotto un cappello nero, un tricorno, e una mantella nera chiamata tabarro. E sotto questa maschera si poteva celare chiunque. Mentre c'era la guagna, penso di aver scritto così, era un travestimento di donna riservato agli uomini. Era una donna che si travestì, cioè questo trasferimento da donna, però una maschera davanti al viso come un gatto. Si portava in un cestino un gattino e la persona che indossava questa maschera faceva versi tipo miagolì e tutto. Le persone che erano intorno si travestivano da bambini, ma erano tutti uomini. Dunque, si pensava di essere davanti una donna con dei bambini, c'erano tutti uomini. Dunque c'era questo travestimento, questo ribaltare. Ma questo vedo che è un po' ricorrente anche in altri posti, anche in Grecia, per esempio, il carnevale. Di Patrasso. Gli uomini si travestono da donne, le donne sono vestite di nero, insomma, c'è un po' questo, si rimescolano un pochino tutte le identità, in effetti. C'è proprio la libertà di fare qualsiasi cosa, di essere per un giorno ciò che non si è mai, in effetti. Chi non ha mai sognato di essere vestito da principessa durante il carnevale? Oppure, non so, i maschietti di solito... Da Zorro, il pirata, Zorro. Sono dei classici. Sì. Strano, io mi sono travestita da pirata, ci sarà qualcosa di strano in me? Per quanto riguarda Venezia, bisogna dire che poi c'è tutto ciò che va intorno al carnevale, no? Come questa grande tradizione delle maschere. Dunque, già nel 1436, con statuto da Doge, i mascareri divennero un mestiere. Dunque, addirittura. Addirittura, si pensa quanto... Allora, quello di cui dicevo era il volo della Colombina, il volo dell'angelo. All'inizio mettevano una persona che con un filo andava dal campanile fino giù. Poi ci fu uno che... Ops! Manco la presa, dunque. E allora però viene letta questa donnina che poi fa la Colombina il giorno di carnevale. Allora, poi ci sono ovviamente, se ci guardiamo un po' intorno, naturalmente quello di Rio de Janeiro è sicuramente, penso, il primo che viene... Immagino che lo conoscono tutti. Alla mente di tutti, quindi non ne parliamo neanche, però appunto dalle informazioni che avevi visto tu c'è il carnevale di New Orleans. Sì, il carnevale, non immaginavo che a New Orleans festeggiassero veramente questo carnevale, e in effetti a New Orleans onestamente dovrebbe essere estremamente interessante, perché a New Orleans, dove si fondono delle culture, insomma, c'è stato lo schiavismo, non è... È una cosa, è andato di fatto, e si sono miscolate le culture e hanno mantenuto, per esempio, dei termini tipicamente francesi, il Mardi Gras. Utilizzano ancora dei termini francesi, ma lì c'è un mescolio di culture che sono incredibili, e lanciano soltanto i pezzettini di carta, se non sbaglio. E comunque comincia presto anche questa, perché comincia dopo l'Epifania, quindi dopo il 6 gennaio, e ci sono appunto manifestazioni in queste due settimane che precedono il martedì grasso. Ci sono celebrazioni ogni giorno fino al giorno prima del mercoledì delle ceneri, che quindi è appunto il martedì, il Mardi Gras, come dicevi tu. Il Mardi Gras, esattamente. E poi sì, un'altra invece, un carnevale che sta diventando abbastanza famoso è quello che si fa in Sudafrica, e si fa appunto a Cape Town. Questo invece è un carnevale molto più giovane. E per esempio quest'anno, 2014, ha il titolo Imagina, e il titolo perché appunto si vuole festeggiare l'immaginazione, quindi con tutte le possibilità dell'immaginazione, e anche qui viene vista come un'opportunità naturalmente per raggruppare persone che vengono da tutto il Sudafrica, e quindi tutti sono benvenuti. Loro calcolano che ci siano circa 2000 persone in costume che quindi girano per la città di Cape Town, e ognuno di questi poi si prepara a uno spettacolo, quindi sono vestiti in modi ognuno diverso dall'altro, però appunto preparano uno spettacolo che loro poi rappresentano nella città, e si comincia appunto alle 3 del, in questo caso si festeggia il 15 di marzo, che è la città appunto dove si fa la grande festa. Si comincia quindi alle 3, in cui quindi tutte queste persone arrivate da tutte le parti del Sudafrica si mettono a sfilare, E quindi e poi la parata vera e propria invece che comincia alle 7:30. Diciamo che ecco, per questa per questo carnevale di Cape Town c'è tutta un'organizzazione, cioè è stata creata proprio una società, un'organizzazione senza scopo di lucro, e di cui è responsabile la professoressa Rachel Giafta. E quindi insomma la caratteristica è che del Sudafrica si parlano tante lingue, quindi poi le persone che si ritrovano a sfilare in realtà parlano moltissime lingue, quindi è molto più variegato di altri carnevali che si conoscono, tipo appunto il più famoso carnevale del Brasile. Altre città abbiamo? Ma guarda, io ho una listina piccolina, perché ce ne sono tanti, perché poi sì, se vai a vedere carnevale ce ne sono tantissimi. A Frosinone si chiama la festa, e anche la festa della Radega, e risale all'epoca pre-cristiana, perché la Radega non è altro che la foglia di agave, e è uguale a fertilità, dunque sempre un rito della fertilità agraria, perché come dicevamo è un pochettino la voglia della rinascita, della primavera dopo un po'. Poi c'è il carnevale di Striano vicino Napoli, e fra i più importanti al sud ci sono tutti sono grandi carri allegorici. Poi c'è Cireale, sono carri infiorati, e sì, diciamo che dovunque andiamo ci sono carnevali. Sì. A me mi ha fatto sorridere l'idea che a Patrasso, proprio uh-huh. Patrasso, organizzano sì. questo perché una persona che ci va regolarmente me l'ha raccontato e mi ha lasciato veramente così piacevolmente sorpresa. Organizzano una caccia al tesoro che dura 3 settimane uh-huh. e per le strade della città, quindi non trovano niente per 3 settimane. No, trovano, e addirittura mi raccontavano che l'anno scorso una delle richieste era quella di farsi mandare da tutte le parti del mondo i volantini dei carnevali che si facevano in altri paesi e quindi dovevano raccogliere, cioè, i partecipanti dovevano raccogliere dei volantini. Eh sì, infatti appunto. Ma non è facile farsi mandare per posta, doveva essere la busta affrancata nella città dove si teneva il carnevale. Addirittura. Quindi ecco perché durava 2 settimane. 3 settimane. 3 settimane. E comunque nella grande sfilata della domenica ci sono più di 40.000 partecipanti, tra l'altro, quindi sì, insomma sì, è sì. un e sembra un che evento... sia uno dei carnevali più antichi d'Europa, in effetti. Uh-huh. Insomma, qui non sappiamo qual è il più antico, sicuramente quello di Venezia, come dicevi tu, che è il più famoso, ma anche lì c'è gente che mesi e mesi prima si prepara, si fa confezionare i vestiti e va a sfilare proprio e resta lì in città vari giorni prima di carnevale, proprio semplicemente per il gusto di mettersi in mostra e di farsi vedere, insomma, anche e di sentirsi un'altra persona. Sì. Per un giorno dal Belgio ci sono persone che vanno, ma da tutta Italia. Comunque ho visto tempo fa un servizio in televisione e queste persone che avevano dei vestiti stupendi fatti anche da loro stessi, e solamente per il gusto di sfilare sulle calle di Venezia con questi vestiti bellissimi. Io lo farei. Ma io pure, devo dire, sì, anch'io. Ma tanti giorni, magari un giorno solo, dai. Dopo sì, che hai fatto tutta la fatica, almeno 2 o 3 giorni. No, per confezionare, beh, questo è vero, sì. Questo bel vestito, cioè, sì, forse sì, è il sogno di una volta, ecco, per una volta dimentichiamo chi siamo. Noi festeggiamo di solito giovedì e martedì grasso e poi mercoledì le ceneri, però in Austria, in alcune zone della Germania, io lo so perché ho vissuto in Austria, si festeggia il Rosenmontag, dunque è lunedì. Dunque io di solito, tra l'altro sono sempre in quel periodo in Austria, si fanno soprattutto i bambini, sfilano per tutte le strade, è una cosa molto, molto sentita nei negozi, nei supermercati, anche le commesse, ogni anno si vestono a tema, cioè il tema del clown, tutte le commesse, il Rosenmontag di quella zona dell'Austria, si vestono tutte di rosa, la prima volta che sono andati come questi sono proprio matti, e c'è questa voglia di stare insieme, di divertirsi. Ecco, una cosa che manca qui, non so se voi avete fatto caso, noi in Italia siamo abituati che In questo periodo non soltanto ci sono le maschere, ma ci sono anche dei dolci tipici di carnevale. Si può chiamare frappe, castagnole, lacci, chiacchiere. Io ieri sera ho fatto le castagnole. Qui non c'è tanto questa tradizione, mentre i paesi germanici si preparano proprio i krapfen di carnevale. Sono quindi ancora anche più loro hanno i dolci di carnevale, tipicamente di carnevale. Sembra, sì, i tedeschi sono molto, molto festaioli, dunque piace moltissimo festeggiare, hanno il dolce tipico, i bambini tornano a casa, le mamme preparano questi dolci, dunque c'è odore, questo odore di fritto che poi dice, vabbè, il giorno appresso poi starò a dieta. Qui manca un pochettino questa tradizione della culinaria del carnevale. Non so voi che cosa ne dite, ma... No, sono d'accordo con te, perché sì. non per carnevale è una cosa, ma anche sì. A Natale, anche nelle sì. altre occasioni, cioè, specialmente in Italia, poi noi abbiamo in ogni periodo, sì. cioè, abbiamo le ricette tipiche, i piatti sì. tipici o dolci che siano. Qui in effetti non c'è questa, non credo che ci sia proprio una tradizione culinaria, quindi hanno altri tipi di tradizioni, questo senza dubbio, sì. ma non a livello culinario. No, così no, almeno non è così sentito. Possiamo dire che a Natale c'è il tronchetto, queste cose qui, come la candelora, ci sono state le crêpe. Tra l'altro, le crêpe in Francia da dove vengono? Questo bisogna, siamo sempre campanilisti fino al massimo, perché si ricorda che alcuni pellegrini andarono a febbraio a Roma e bussarono alla porta del Vaticano e qualcuno gli aprì e siccome non c'era nient'altro da mangiare fecero solamente queste crêpe, queste frittelle di farina e zucchero, e loro per ricordo di questo, di questi essere stati ospitati, ripercorrono ogni volta queste crêpe. Da lì viene l'origine delle crêpe in Francia. Quindi siamo stati noi sfamati. Insomma, la pizza l'abbiamo inventata noi. Allora, siccome mancano solo 2 minuti alla fine, io vorrei che li dedicassimo a parlare di un avvenimento che ci sarà il 29 marzo, Fiorella. Sì, ballando. Oh, sì. Ballando, ecco. Adesso mi metto nei panni della... Anche della se live. Il 29 marzo siamo in Quaresima, però si può ballare. Ma sì, ma poi è per una buona causa, perché qui dobbiamo raccogliere fondi, venite moltissimi. Vorrei ricordare che è un'iniziativa della VAI, Volontari Assistenza Italiani, di cui Fiorella fa parte. E il titolo è Ballando sulle note della primavera, perché se continua così ci troviamo in estate. È una grande serata italiana, come si fa da noi. C'è un'orchestra, sono invitati grandi, bambini, nonni, tutti quanti, cioè si balla, si sta insieme, si mangia. Io devo dire una cosa, c'è questa orchestra, chiamano I Diamanti, li vorrei dire per una volta, se mi date il tempo. C'è Domenico Giuliani, Luigi Giuliani, Carmelo Riggio, Enzo Riggio, Fabrizio Vullo, Giuseppe Vullo e Vanessa Vullo. Sono delle persone squisite, si sono messe a nostra disposizione, danno questa serata senza prendere compenso, come tutte le persone che lavorano dietro la VAI, e lo fanno con molto cuore, con molto il cuore. Stanno andando in giro per Bruxelles a vendere biglietti, a vendere affiche, e di questo io lo vorrei veramente pubblicamente ringraziare. Sono italiani, sanno cosa vuol dire arrivare qui da soli e avere difficoltà, e hanno avuto, ringraziando il cielo, stanno bene, sono delle persone molto e adesso cercano di dare un pochettino del loro tempo, della loro professione ad altre persone. Allora, quindi ripetiamo, ballando il 29 marzo a che ora? Dalle 7 fino a mezzanotte, dalle alla sette Sala Aurore. Sala Aurore, che si trova Chaussée de Mons 722 sopra Deleuze. Sopra il Deleuze, quindi Chaussée de Mons. Se volete potete chiamare allo 0478 518759. Benissimo. Si balla e si mangia. E ci sono comunque informazioni anche presso il sito della VAI, su della Facebook VAI. Naturalmente. Abbiamo www.vaiwordpress.com, se no Facebook, e potete scriverci a vai.belgio@gmail.com. Benissimo. Allora, io veramente vi ringrazio, siamo andate, mi dispiace, con i radioascoltatori un po' di corsa, visto che abbiamo cominciato un po' più tardi. Comunque ringrazio moltissimo Anna Maria. Grazie a voi, grazie a te. Grazie tante a Fiorella, come sempre piena di iniziative. No, grazie a voi, veramente siete delle persone splendide. E naturalmente ci vediamo, quindi ci risentiamo qui sulle onde di Dei Colori dell'Anima lunedì prossimo alle 21. Buonasera. Arrivederci. Buonasera.